siamo arrivati al punto in cui dobbiamo domandare se qualcuno interviene nella discussione e innanzitutto di segnalarci qui tutti subito, perché così possiamo suddividere il tempo che ci rimane in un minutaggio equo per tutti, e in secondo luogo di tenersi, va bene, vero, alle cose essenziali. Mi pare che alle una dobbiamo chiudere inesorabilmente. Chiedo scusa, prima io pregherò ancora il professor Roger di fare rispetto a lui, anche perché ha seguito tutto quanto i lavori del convegno, di parlare un poco a chiusura del convegno stesso. Qualcuno intende intervenire? Prego. Sulle relazioni, il professor Stimnad. Grazie. Solo poche osservazioni, prego di favore in tedesco. Ich bin Monsignore Wolfskova sehr dankbar für die Klarstellung, die gebracht hat in Hinblick auf das Canonicato in Bressanone für den Bruder Johannes Hinderbach, für Konradus. Die Literatur war bisher durch eine unklare Angabe in Rechnungsbüchern nicht in der Lage, zwischen Johannes Hinderbach und Konrad im Falle Brixen zu entscheiden. Wir sehen daher jetzt klarer, warum gerade dieser Konrad eine so wichtige Mittlerrolle in der Frage La contrastata nomina del Cardinale Francesco Gonzaga als Nuntius verschiedener Streitpartner spielte. Das eine. Das andere, es ist heute und auch in den letzten Tagen immer wieder angesprochen worden, der Versuch des Papstes, der Curia Romana, Trient aus dem Einflussgebiet der deutschen Nation herauszulösen. Ich bin durch einen glücklichen Zufall in der Lage, auf die Nominationsbulle, la bolla di nomina papale, del Vescovo Hinderbach hinzuweisen. Jeder, der im Archivio di Stato sie suchen wird, wird derzeit sie nicht finden. Vielleicht bringt das Trasferimento in nove locali des Archivio di Stato eine Änderung. In den päpstlichen Registern, Registra Lateranensia, ist jedoch diese Nominationsbulle, Provisionsbulle, eingetragen. In den Registra Lateranensia. Und hier findet man den Text, wie üblich, unter Bezugnahme auf die Elezione durch die Canonici Tridentini. Der Text wurde aber cancellato. Und aus der für deutsche Hochstifter üblichen Provision aufgrund einer Elektion wurde ein Mixtum. Nach italienischem Vorbild. Ex plenitudo potestatis pape, providemus den novo vescovo. Soweit meine kurze Intervention. Vorrei adesso aggiungere, come membro scientifico straniero del vostro comitato, i miei ringraziamenti cordiali all'iniziatore di questo incontro di studio, il nostro amico Monsignore Professore Roccia, per tutte le sue premiure, per tutte le sue iniziative e la prontezza che ha avuto in questa materia, concernente di questo incontro. Grazie molto. Lei ha intenzione di rispondere? qualche altro intende intervenire. Prego. Professor Vareschi, mi pare, vero? Ci vedo bene, sì. Sì, una piccola cosa sulla questione, e mi rivolgo al signor Wolfsgruber, sulla questione della prepositura. Io credo che allora la cosa si può ricostruire in questo modo. Davvero la bolla di fondazione attribuisce al vescovo la collazione della prepositura, e però il vescovo ne fa soltanto una, la prima, del Sopnov, dopodiché Callisto III e gli altri papi giù e giù. E d'altra parte però entra anche il discorso dell'attribuzione agli arciduchi di Tirolo, no? Di cui ho parlato prima, 1469, come a titolo di jus patronato e di conferimento e di presentazione, ovviamente al Papa, il quale poi in forza della propria autorità fa la provisione. Mi pare che sia così. Altri?